Allora, il Sole 24 Ore apre sulla situazione dei mercati. BTP oltre il 5%, risale lo spread. Questo è il titolo di apertura. Mentre la maggior parte dei quotidiani apre sulla situazione Sicilia. Corriere della Sera, vince l'asse PD-UDC, Grillo primo partito, questo è il titolo di apertura. Repubblica, Sicilia, terremoto nelle urne. Per La Stampa, Grillo supera il test 18% in Sicilia. Il Messaggero, Sicilia, vince l'alleanza PD-UDC. Libero, una crocetta sul PDL. Il Fatto Quotidiano, la mazzata siciliana, l'Unità vince crocetta sulle macerie. Il Giornale, quid o morte, è la crisi del PDL, ultima chiamata per il PDL, titolo al Giornale. Pubblico invece mette la foto di Crocetta e Grillo col titolo vittorie di Pirro. Mentre Avvenire, l'uragano è in Sicilia. Il Manifesto, Crocetta e delizia. Il Secolo XIX in Sicilia, Grillo c'è, il PDL no. E come vedete, tutto declinato alle elezioni siciliane, che sono certamente il tema del giorno dal punto di vista politico. Io voglio partire però dalle nostre care e beneamate province, a pagina 15 del Corriere della Sera. Oggi approda in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto per il riordino delle province, come scrive Lorenzo Salvia, siamo appunto sul Corriere, 6 mesi in più e nessun commissario. C'è profumo di supercazzola, ve lo dico, come quella sulla spending review. Avanti con la riduzione di 36 enti, ma dal 2014 già spostiamo l'asticella avanti di un anno. 6 mesi di tempo in più. Nessun commissariamento automatico, così nel decreto legge che arriverà oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe essere fissata al 1 gennaio 2014 la data per trasformare in realtà la nuova mappa delle province italiane. Dunque, cari ascoltatori, ci si prende qualche mese in più, chissà perché, c'è sempre da rinviare qualcosa. Rispetto alle intenzioni iniziali del governo, che aveva ipotizzato la data del 30 giugno 2013, ci sarà più tempo, un po' più di tempo. Un modo per venire incontro alle richieste degli enti locali, scrive il Corriere, come l'avere scartato, per esempio, l'altra idea, quella di commissariare subito tutte le province. Ipotesi che si era profilata, ma che è stata appunto, verrà accantonata oggi in Consiglio dei Ministri. A guidare la transizione saranno i presidenti uscenti, ma il governo avrà la possibilità di nominare un commissario con poteri sostitutivi in caso di resistenze. Ve le immaginate le resistenze delle province? Cosa fanno? Occupano i palazzi istituzionali delle province col presidente che si barrica insieme ai consiglieri? Le resistenze. Racconta il Corriere che restano i nodi da sciogliere. Due li avevamo raccontati: il salvataggio di Sondrio e Belluno, le due province interamente di montagna. Non hanno i requisiti di 350.000 abitanti e 2.500 km quadrati per sopravvivere, ma chiedono una deroga. L'Italia è il paese delle deroghe, perché interamente di montagna. C'è anche una discussione aperta su Arezzo, la provincia di Arezzo. Perché? Perché la provincia di Arezzo non avrebbe i 350.000 abitanti secondo un censimento dell'Istat di qualche tempo fa, ma la provincia di Arezzo dicono: guardate che se fate il controllo demografico ora abbiamo superato la soglia dei 350.000 abitanti, quindi ci si gioca tutto anche su degli aretini che per favore state lì, non vi muovete, cari aretini, non vi muovete, perché devono fare il censimento e quindi può darsi che per qualche migliaia di abitanti ora rientrate nelle prerogative per avere la provincia, oppure emigrate se pensate di voler così abbattere la provincia. Al di là degli scherzi, ecco, insomma, la notizia è questa: 6 mesi in più per le province e nessun commissario dal giugno 2013, ma neanche dopo il commissario. E comunque la data che oggi verrà fissata in Consiglio dei Ministri, sempre che rimarrà poi questa, è spostata in avanti, 1 gennaio 2014, per il riordino delle province. Vorrei andare invece adesso sul secolo XIX e anche sul Fatto Quotidiano, perché ci sono dei dati che analizzano i conti del Popolo della Libertà, del bilancio, per quel che riguarda il secolo XIX, i conti a Palazzo Madama, cioè al Senato, i conti riservati del gruppo di maggioranza a Palazzo Madama. Francesco Bonazzi ne scrive sul Secolo, a pagina 7, dice: siamo entrati in possesso di questo... di queste tre paginette, per la verità, con la dicitura bilancio al 31 dicembre 2011 del gruppo del PDL al Senato. E se i numeri sono quelli, scrive Bonazzi, e non c'è motivo di dubitarne perché sono controfirmati da tre senatori della Repubblica, lavorare per il gruppo del PDL a Palazzo Madama deve essere un vero privilegio. E anche ben pagato, una media di 164.000 euro lordi in media. Appunto, non come i senatori, questi sono le persone che lavorano al gruppo del Senato del PDL, quindi collaboratori, uffici stampa, immagino. Ecco, la spesa è appunto quella, al gruppo lavorano 26-27 persone alle quali sono andate 4.430.000 euro rotti per personale, oneri tributari e contributivi. Ecco, appunto, saremmo di fronte a una spesa media superiore ai 160.000 euro per ciascuno dei collaboratori. Ma poi ci sono la bellezza di 887.000 euro messi sotto la dicitura formazione, seminari, convegni, pubblicazioni, manifestazioni e sito istituzionale. Vabbè, meglio non sottilizzare più di tanto, scrive Bonazzi. Che dire poi degli ulteriori 600.000 e rotti euro di spese generali, una voce calderone in cui finiscono consulenze tecniche, legali, elaborazione dati, gestioni auto, telefonia, spese postali, bancarie, cancelleria, tipografia, giornali, riviste, materiale tecnico, supporti informatici, telefonici, spese di rappresentanza e missioni. Questo 600.000 euro. E poi che ci sarà mai nelle spese di funzionamento che ammontano a 425.000 euro tondi tondi? A questa montagna di denari pubblici vanno poi aggiunti 3.921.000 euro ricevuti dal fondo destinato ai senatori per il rapporto eletto-elettori, divisi per 127, cioè il numero dei senatori del PDL, fanno altri 30.877 euro a senatore per curare il collegio elettorale. Avete capito? Con la legge elettorale Porcellum non c'è da curare nulla, perché vengono messi in lista e vengono votati. Però viene dato una media di 30.877 euro a senatore per il fondo destinato al rapporto eletto-elettori. Ecco, che rapporto avete voi elettori con i vostri eletti? In questo caso del PDL... ma ovviamente vale per tutti i partiti. Vabbè, Senato, senza Berlusconi vanno in crisi i conti del PDL, questo è il titolo dell'articolo sul secolo XIX, e anche Fabrizio Esposito sul Fatto Quotidiano, pagina 5, nel titolo è: Palazzo Grazioli lo pagano i contribuenti, vale a dire, fa sapere il fatto che dal 2011 l'affitto della residenza privata dell'ex premier è stato trasferito sul bilancio del Popolo della Libertà, quindi sul bilancio del partito, e dunque finanziato da soldi pubblici, e si tratta di circa 1.871.000 euro l'anno. Questo sul Fatto Quotidiano lo trovate a pagina 5, sempre lì: conti, politica e soldi e rapporto eletti elettori, ovviamente fondamentale. E allora, le elezioni in Sicilia, come la vedete? Come gli analisti parlano del voto? Sicuramente tutti sono concordi a dire che il 52% di astensionismo è una cifra molto molto alta. E per cui quello è il dato principale, oppure pensate che il dato principale sia il 18% del movimento di Beppe Grillo, oppure la vittoria a governatore di Crocetta, la possibile ingovernabilità, perché adesso ovviamente si dovrà alleare con qualcuno per avere la maggioranza, il crollo dei candidati del Popolo della Libertà. Insomma, ci sono tanti elementi di cui parlare dai giornali. Beh, intanto Rosario Crocetta fa due interviste, una a Repubblica ad Attilio Bolzoni e una al Messaggero a Mario Aiello. Cosa dice a Repubblica? Taglierò consulenze, caccerò manager e con me Cosa Nostra deve fare le valigie. Così Attilio Bolzoni intervista Crocetta: con la mia elezione si è rotto un muro di gomma. Trovate l'intervista a pagina 4 di Repubblica. Per la prima volta vince un candidato che ha scelto di lottare contro la mafia. Spazzerò via un po' di inutili e costosissime consulenze. Congederò un po' di direttori generali. Questo mi piacerebbe fare nel mio primo giorno di lavoro: allontanare chi guadagna cifre spropositate senza motivo. E se la prende con una persona facendo nome e cognome, per prima cosa licenzierò Ludovico Albert, che è il direttore generale, il dirigente generale della formazione alla regione siciliana, e con lui tutti gli Albertini. Così farò risparmiare tanti soldi alla regione, darò subito dei segni di discontinuità anche con il governo lombardo. Ecco qui però Crocetta viene sottoposto a una serie di domande proprio sull'alleanza possibile. Basta con questa storia di Lombardo non me ne frega niente, mi avete rovinato la campagna elettorale con queste voci dell'inciuccio con lui. Io non voglio fare inciuci con Lombardo né Lombardini, con Musumeci né Musumecini, con Miccichè o Miccichini, o Grillini o Compagnia Bella. E beh, allora gli chiede: con chi si alleerà? Con i 5 milioni di siciliani, che è una risposta non risposta, nel senso che poi un'alleanza dovrà farla. E poi contro Fava: Fava è un apprendista stregone, la verità è che con gente come lui non avremmo mai vinto, con lui non si vince mai nulla. Insomma, un Crocetta che ne ha per tutti. Grillo: io mi sento a 7 stelle, io sono il vero innovatore. Grillo blatera di una rivoluzione che non sa fare. Confermo che sarà Lucia Borsellino, la figlia del magistrato Paolo Borsellino, che abbiamo avuto anche noi ai nostri microfoni, sicuramente sarà lei l'assessore alla sanità. E conferma che non farà accordi sottobanco coi vecchi padroni della Sicilia? Risponde Crocetta: c'è chi ha sempre sostenuto che io ero l'erede prima di Cuffaro, poi di Lombardo, senza tener conto che sulle mie spalle pende una condanna a morte da parte della mafia. Io oggi ho vinto nonostante una campagna stampa ostile. Al Messaggero invece: io, antimafia, omosessuale e anticasta, parla al neogovernatore. L'intervista di Mario Aiello lo trovate a pagina 3. Nulla è ingovernabile, dice Crocetta, basta volerlo fare. Se nel Parlamento regionale non troveremo la maggioranza per governare, il che mi sento di escluderlo, perché i partiti non avranno il coraggio di scoraggiare i cittadini, nessun dramma, si riandrà a votare e prenderò il 60%. Dunque un Crocetta molto sicuro di sé. In questa intervista al Messaggero, per la verità, apre un po' ai grillini. La nostra è una vittoria storica, non soltanto perché è la prima volta che una persona di sinistra in Sicilia diventa governatore eletto dal popolo. E a Cancelleri, cioè il candidato grillino: mi dispiace che per loro, che non vogliono prendere con me neppure un caffè, sono delle zitelle acide che se continuano così non troveranno mai marito. Ma il marito è lei? Chiede Aiello. Beh, loro non hanno capito che stavolta il popolo siciliano è pronto a fare la rivoluzione. Se Grillo la vuole impedire, se ne assuma la responsabilità. Grillo deve cambiare. Ha visto come sono finite l'Italia dei Valori e Sel? La chiusura e la contrapposizione sterile portano prima o poi in un vicolo cieco. Dunque, un Crocetta che, pur non risparmiando critiche, sul Messaggero, vedete, dice: Grillo, capisca, è quasi come un messaggio, capisca che ora, se magari ci alleiamo, possiamo anche fare qualcosa, non facciano le zitelle acide. Ora, come reagiscono i partiti? Bersani esulta: cose da pazzi, questo è il titolo del Corriere a pagina 6, abbiamo vinto in Sicilia, cose da pazzi, questa è stata la frase di Bersani. Mentre invece sicuramente più in crisi il Popolo della Libertà, tutti guardavano ad Alfano perché la possibilità c'era, addirittura adombrata da qualcuno, che in caso di sconfitta, come è avvenuto, del candidato Musumeci, ci potessero essere le dimissioni del segretario Alfano. Alfano ieri ha fatto una conferenza stampa, non solo non si dimette, ma rilancia come titola il giornale a pagina 2: dimettermi, io corro alle primarie e il governo va avanti, il governo Monti. Quindi una totale, si può dire anche sconfessione della posizione del giorno prima di Silvio Berlusconi. Nel PDL sono condivise le mie idee, tanto che in un retroscena pagina 9 del Corriere, a firma Paola Di Caro, si parla del gelo di Berlusconi. Non una parola in pubblico, non un commento. Per Silvio Berlusconi la Sicilia è affare loro, di un PDL che ha sbagliato le mosse, che così com'è certo non può vincere, che rischia di questo passo di sparire. non ci ha voluto mettere la faccia in tutti questi mesi, non lo ha fatto neanche ieri. Attribuito a Berlusconi è questa frase: vuole farsi le primarie? Alfano? Se le faccia pure. D'altra parte, se le primarie si bloccano, Angelino è finito e il partito si sfalda. E io non voglio questo. Secondo Repubblica, addirittura la strategia di Berlusconi, che sta un passo indietro, che mantiene il gelo con Alfano, sarebbe questa: ricostruisco l'asse del nord, guido la rivolta degli imprenditori contro le tasse e riconquisto i miei voti in Sicilia, quelli li hanno persi perché divisi. Un Berlusconi scrive nel retroscena Carmelo Lo Papa che lascia solo Angelino e che ora dice: farò alleanze con Bossi, farò alleanze con Tremonti e è sicuro che si voterà col Porcellum, cioè con l'attuale legge elettorale, cioè che non ci sarà alcuna modifica. Al che viene attribuita questa frase a Berlusconi: posso anche mettere in lista quelli di Publitalia. Ecco, questa è il retroscena ovviamente di Repubblica. C'è anche, ci sarebbe una cena segreta con Bossi che è saltata all'ultimo momento. Ovviamente, ripeto, ci si addentra sempre nel retroscena della politica perché pubblicamente non c'è alcuna dichiarazione. Sul Giornale, beh, fa abbastanza effetto vedere questo titolo che pone Alfano proprio davanti a un out-out. Il titolo del Giornale di prima pagina è Quid o morte? Ricordate che quid è, no, la famosa battuta di Berlusconi su Alfano, gli manca il quid. È quid o morte? E c'è il direttore Alessandro Sallusti che fa un editoriale dal titolo Ultima chiamata per il PDL. Scrive Sallusti: sono testimone che i rapporti personali tra Alfano e Berlusconi restano affettuosi, ma il problema non è questo. Come dimostra il successo di Grillo, la marea di astensioni, gli elettori, anche quelli dormienti, si aspettano dal centrodestra parole d'ordine forti, chiare, conseguenti. E scrive ancora Sallusti: tutti questi nodi saranno sciolti dalle primarie di dicembre? Possibile, ma solo in parte. Il partito, per dirla alla Berlusconi, o recupera quel quid che lo distingueva sul mercato elettorale o muore a prescindere di chi da chi lo guiderà. Tra l'altro un Alfano pare anche molto arrabbiato con Daniela Santanchè, riferendosi a lei avrebbe detto che è un'asserita zelante interprete di Silvio, alla quale bisognerebbe, a questi asseriti zelanti interpreti di Silvio Berlusconi, scrive Ugo Magri sulla Stampa, bisognerebbe revocare l'autorizzazione a parlare in nome del presidente, visto che nuociono tantissimo. Insomma, un Popolo della Libertà davvero in crisi dopo questo voto, ulteriormente dopo questo voto. Invece si gode ovviamente il trionfo Beppe Grillo e il suo Movimento 5 Stelle. Ora al Palazzo della Cuccagna aspetta l'ondata delle zitelle acide, questo è il titolo di Gian Antonio Stella, editoriale di prima pagina del Corriere, che poi prosegue a pagina 3. Le zitelle acide, così sono state definite anche da Crocette, anche dallo stesso Cancelleri, che dice: sì, siamo delle zitelle acide perché non vogliamo fare alleanze con alcuno. C'è anche un Miccichè che dice, ricorda Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera: li vorrò vedere, voglio vederli i grillini il giorno in cui si ritrovano in mano la busta paga con 15.000 euro netti al mese. Voglio proprio vederli. Ovviamente tutti i riflettori sono puntati ora sul Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle io l'ho già definiti 3-4 volte grillini. Spero che non mi inondino di insulti o di raccomandazioni a non farlo, perché ieri il Movimento 5 Stelle di Milano ha mandato ai giornalisti un vero e proprio glossario su come ci si deve comportare. Quindi io mi metterò lì, poi studierò, dedicherò una mezz'oretta del mio tempo e della mia giornata per prendere nota di tutte queste consigli, tutti questi consigli che sono stati mandati ai giornalisti, che suonano così: termini come partito e leader sono pertinenti alla politica tradizionale, quindi altro da noi, quindi mai accostare il termine partito al Movimento 5 Stelle. E poi sono incompatibili e fuorvianti rispetto alla nostra realtà di partecipazione e condivisione. È corretto, ecco, sto prendendo nota, è corretto riferirsi al Movimento 5 Stelle come a una forza politica e agli eletti come portavoce. La parola grillini è scorretta e anche un po' offensiva in quanto riduttiva e verticistica. Grillo è il megafono al nostro servizio, non il nostro leader. Noi siamo gli attivisti del Movimento 5 Stelle, o per brevità, ecco, se vogliamo abbiamo anche questa possibilità, noi della casta dei giornalisti, attivisti 5 Stelle. Ecco, prendiamo nota, mai più usare la parola grillini. Pena, non lo so. Non voglio neanche saperlo. Sì, anche su Libero c'è questo tema, non chiamateci grillini, ecco i diktat per la stampa, oppure anche sul Corriere della Sera. Insomma, questo comunicato effettivamente ha fatto un pochino specie, ecco, perché il glossario su come ci si deve rivolgere o come si deve definire il rappresentante del Movimento 5 Stelle. Ecco, meglio fare politica in maniera normale, senza fare queste cose che non hanno granché senso. Tra l'altro, Beppe Grillo ora ovviamente pensa già a domani, a tra qualche mese, alle elezioni nazionali. Sono il capo politico, Grillo scende in campo, questo è il titolo del Fatto Quotidiano a pagina 3. Ovviamente stanno stabilendo le regole per candidarsi al Movimento 5 Stelle, sfruttando l'onda di questo successo che c'è stato in Sicilia per le elezioni nazionali. E c'è tra l'altro il consigliere che spesso ha avuto problemi di recente con Beppe Grillo stesso, vale a dire il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Favia, che dice: beh, vuol dire sono il capo politico, tradotto da me è vuol dire Beppe Grillo farà il candidato premier per il movimento. Comunque questo staremo a vedere. Della Sicilia poi parleremo anche alle 8:30, avremo anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle nostro ospite. Problemi invece per Antonio Di Pietro e la puntata di Report di Milena Gabanelli domenica, che ha messo in luce tutte i movimenti immobiliari legati al leader dell'Italia dei Valori, ha suscitato e ha scatenato nella base del partito delle polemiche. Altro scandalo IDV, il partito dice basta al dittatore Di Pietro, così la vede il giornale Paolo Bracalini, con il giornale che dice beh, ci è voluto Report, ma in realtà le inchieste del giornale, di Panorama, aggiungo io, le ho viste anche su Libero, queste inchieste sono state già fatte in passato. Ma anche sull'Unità, l'IDV processa Di Pietro, l'ex PM sotto accusa per la debacle siciliana, sul web però critiche per la brutta figura in TV sugli immobili. No al partito personale, c'è per esempio il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, Massimo Donadi, che chiede subito un congresso per cercare di affrontare questa situazione, mentre il capogruppo al Senato Belisario dice bisogna azzerare tutto, occorrono cambiamenti definitivi per la nuova stagione. Tra l'altro sul Fatto Quotidiano a pagina 8, la firma Antonio Massari da Catanzaro, c'è quella che si profila potrebbe essere un'altra grana giudiziaria non indifferente per il partito di Antonio Di Pietro. Un'indagine a Catanzaro su un caso di presunto voto di scambio. È il capitolo giudiziario più insidioso nella storia dell'Italia dei Valori, che potrebbe arrivare dalla procura di Catanzaro, scrive Massari. Il PM Pierpaolo Bruni sta infatti indagando su un presunto accordo elettorale con l'Ndrangheta. Il clan Tripodi di Limbadi concentrò la sua attenzione su un uomo dell'Italia dei Valori, e sapete chi è? È il consigliere uscente del Lazio, Vincenzo Maruccio, il capogruppo che si è dimesso dopo l'accusa di peculato alla Regione Lazio. Il consigliere non è indagato, fa sapere il Fatto, ma il suo riferimento emerge nelle intercettazioni, una in particolare in cui al telefono c'è Francesco Comerci, che è accusato di essere organico all'Ndrangheta e che parla con un imprenditore, Rosario Presti. La data è fondamentale, siamo a pochi giorni dalle elezioni, e Comerci riferisce a Presti tre fatti. Dice di aver incontrato un politico calabrese, spiega che si tratta di un assessore della Regione Lazio. Poi aggiunge di aver stretto con lui un accordo, appalti in cambio di voti. Infine chiede l'aiuto dell'imprenditore, pulito e coi certificati in regola, affinché l'assessore non accampi scuse. Insomma, Presti dovrà prestare il proprio curriculum immacolato per incassare gli appalti ottenuti grazie al futuro intervento dell'assessore in cambio del sostegno elettorale delle 'ndrine. Di chi si parla? E questo dice il fatto, l'unico assessore regionale calabrese nella regione Lazio era proprio Maruccio, che ha origini di Vibo Valentia. E si profila appunto questa grana. Tutto questo invece, c'è un Mario Monti che dalla Spagna parla di politica e dice, risponde in qualche modo alla minaccia di far cadere, di far mancare la fiducia, quella che lui non definisce una minaccia. La sfiducia chiedete ai mercati, questo è il titolo di pagina 2 del Sole 24 Ore, Lina Palmerini, con Mario Monti che in maniera molto gelida dice, non c'è alcuna minaccia. Non può essere fatta, perché non la vivremmo come tale. Se qualcuno decidesse di toglierci la fiducia, non toglierebbe nulla a noi, se non un'attività di governo che non è stata da noi richiesta. Un Mario Monti gelido in questa risposta. Tra l'altro il Sole 24 Ore fa sapere che lo spread è risalito a 356. L'ironia di Mario Monti è stata, per motivi che mi sfuggono, in realtà si riferiva ironicamente anche alle frasi appunto che hanno messo in dubbio la tenuta del governo stesso. Racconta però il Sole 24 Ore con Luca Davi che in tutto questo ci sono anche le incertezze politiche italiane, ma anche le nuove tornate di aste obbligazionarie, la telenovela spagnola sulla richiesta d'aiuti, tutto incide sull'aumento dello spread. Monti minimizza la minaccia di Berlusconi, questo è il titolo di pagina 8 della Stampa. Quanto ho ancora, un minuto? Più o meno, scarso. Lo dedico a una notizia sul Corriere della Sera, pagina 27. Care suocere, state attente. Appostamenti e irruzioni in casa quando la suocera diventa stalker. Giusy Fasano, sul Corriere a pagina 27, nel Vicentino, una donna di 69 anni è indagata per stalking per aver reso impossibile la vita della nuora. E perché diceva di lei, guarda che disordine in questa casa, tutta estetista e vestiti scollacciati, tanto paga quell'idiota di mio figlio, bella vita svegliarsi e farsi mantenere da lui mentre lui poveretto lavora. Tutte queste classiche, posso dire classiche? No, non proprio classiche, dai, si comportano bene le suocere in generale, ma in questo caso la nuora l'ha denunciata per stalking, persecuzione. Trovate il caso a pagina 27 del Corriere della Sera. Care suocere.